Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Benvenuti da Anna Marino a Voci di Piccola Impresa, idee anticrisi. Questa è una puntata speciale di Voci di Piccola Impresa che vi ricordiamo andrà in onda a luglio e ad agosto, il sabato alle 13.15, con le idee anticrisi, i consigli, le dritte e le storie raccontate dagli stessi imprenditori. La puntata di oggi è dedicata agli start-uppers e alla due giorni che li ha visti protagonisti lo scorso 21 e 22 giugno in un incontro tra Milano e Monza a cura di Nova, Il Sole 24 Ore, Radio 24, Startup Business e di Regione Lombardia e provincia di Monza e Brianza. Decine di innovatori, tecnologi e creativi con progetti di imprese in erba si sono presentati alla fiera delle startup in stand multicolor dotati di ombrellone, a una platea di addetti ai lavori, incubatori, venture capital e business angel. Tutte le loro schede si possono trovare sul sito www.ilsole24ore.com/dossier/tecnologie/nova. E durante il workshop abbiamo raccolto le istruzioni per l'uso per chi vuole avviare un'attività, come si entra in un incubatore, a cosa servono gli acceleratori, cosa chiedono in cambio i venture capitalist, Case History che fa strada e ci presenta quali porte si possono aprire alle startup che navigano nelle acque della crisi. Sono i consigli di Almir Amberskovic, fondatore di Restopolis, www.restopolis.com, e vicepresidente del gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda. Restopolis è una piattaforma di prenotazione dei ristoranti e con la disponibilità in tempo reale, quindi sia via web sia via smartphone, 24 ore su 24. Siamo nati un anno fa, quindi un po' di esperienza c'è, abbiamo iniziato, io lo sottolineo sempre, a fatturare, cosa fondamentale per un'azienda neonata, quindi la cosa principale sulla quale concentrarsi, più che cercare i soldi, cercare come fare soldi. E quindi questo sarebbe il primo consiglio, anche se i consigli di solito si chiedono e non si danno. E poi, vabbè, sicuramente quello di cercare di crearsi il network, le relazioni, capire chi sono i vari attori che possono essere interessanti, perché comunque l'ecosistema che abbiamo qui sta crescendo, per quanto indietro di almeno 10 anni rispetto ad altri paesi ai quali ci possiamo paragonare, che possono essere la Francia, l'Inghilterra e Germania. Un elenco di cose che si possono, di strumenti che si possono utilizzare quando si vuole mettere in piedi un'impresa. La fase di partenza è presentarsi, sapere come presentarsi, eccetera, quindi cominciano ad esserci tanti eventi. Infatti anche oggi questo evento è stato creato ad esempio con Startupami, che è un evento che si tiene tutti i mesi, dove c'è la possibilità di fare il cosiddetto pitch, quindi presentare la propria idea, ed è utile perché a un certo punto, quando vai a cercare l'investitore, devi presentare la tua idea ed essere capace di farlo in tempi rapidi. Quindi questo è un punto di partenza. Dopodiché appunto tutti gli altri interlocutori, che possono essere gli incubatori, che possono essere business angel, che possono essere le varie tipologie dei venture capitalist, quindi a partire da quelli che fanno il cosiddetto seed capital, quindi per gli investimenti early stage, cioè sostanzialmente per delle idee che sono in una fase di nascita, per poi arrivare a quelli che comunque investono sulle idee già avviate. Una cosa importante: pensare di presentare un progetto sulla carta e basta è difficilissimo, quindi ecco, è fondamentale appunto iniziare a creare già qualche cosa, un prototipo, cioè qualche cosa che possa dimostrare che si è in grado. E poi ovviamente forse ancora uno step, anzi lo step precedente, comunque la costituzione del team. Il team deve essere fatto da persone complementari che comunque devono in qualche maniera nell'insieme dimostrare di avere una marcia in più. Team, strumenti, idea già provata, siti che ti senti di consigliare? Più che siti, io consiglio alle startup, soprattutto consiglio dei gruppi su Facebook. Italian Startup Scene è un gruppo di 5.000 persone che sta crescendo, dove si possono trovare veramente argomenti interessanti, tutti di alto livello. Poi ovvio, magari adesso il livello si sta abbassando un pochino con crescere il numero degli utenti, che è cosa normalissima e naturale, però lì si possono trovare sicuramente tanti, tanti consigli. Un altro è Startupami, che appunto è il gruppo dell'evento Startupami che si tiene tutti i mesi qui a Milano, dove appunto ogni volta vengono presentate sei nuove idee, e appunto è un modo per fare network. Ecco, un'accelerazione creatore d'impresa, Enlabs, www.enlabs.it. Ce ne parla Luigi Capello, suo fondatore e il primo incubatore open d'Italia, che presenta ai business angel o ai seed capitalist che le finanziano idee e startup già con un buon livello di strutturazione, quindi pronte per diventare impresa. Noi quello che cerchiamo sono team già strutturati, per cui normalmente c'è qualcuno nel mondo tecnico, qualcuno nel mondo del marketing, una parte commerciale, del management, che decidono che hanno un'idea. Vanno sul nostro sito, due volte all'anno lanciamo un contest, per cui per due mesi teniamo aperte la competizione dove si può fare domanda. C'è un modulo da scaricare che sarà scaricabile se apriamo il contest ad agosto, sarà tra agosto e settembre, per poi selezionare le startup e farle partire da noi, ospitarle, quelle selezionate, massimo sei, subito dopo la selezione, per sei mesi da settembre in poi. Quindi siamo in tempo per dare qualche dritta indicazione a chi volesse passare attraverso di voi per dare la svolta alla propria vita. Assolutamente, c'è tutta l'estate per poter lavorare su un'applicazione, creare un team. Dovete partire, mi rivolgo ai ragazzi, dico cercate di trovare 3-4 amici, normalmente sono persone con cui avete studiato, avete fatto un corso o all'università oppure avete lavorato insieme, cercate con loro di trovare un progetto e di realizzarlo. Quindi voi siete un acceleratore, diciamo, di chi vuole prendere un po' velocità anche con la propria idea. Da una parte offriamo la location, per cui gli spazi, le facilities per semplificare, per togliere. Come sappiamo l'Italia è un paese pieno di burocrazia, noi la burocrazia ce ne occupiamo noi col nostro mentor ad aiutare la startup, cerchiamo di fare business networking, cerchiamo di dare uno spirito imprenditoriale al team. Se riusciamo a fare questo passaggio, per cui dall'idea all'impresa, portiamo l'impresa sul mercato, avremo poi degli investitori, i veri investitori che verranno a capitalizzare poi la società. Numeri, quante imprese avete aiutato e qual è il vostro ritorno? Allora, in un anno abbiamo investito in 12 società, con 6 di queste abbiamo chiuso il fundraising o siamo in chiusura di fundraising entro il mese di luglio. I nostri ritorni li vedremo un pochino più avanti, nel senso che noi non siamo un investitore speculativo, noi accompagniamo le nostre società 3-4 anni, comunque tutto il tempo necessario. Ed ecco un network che mette in contatto il mondo universitario e le startup con le aziende grandi che adottano aziende piccole. Riccardo Pietrabissa, presidente di Netwal, www.netwal.it. Netwal è un'associazione di università, siamo 54 università più qualche ente di ricerca pubblico come l'Enea e il CNR, ma cerchiamo di favorire la crescita di piccole imprese, microimprese di fatto, che nascono su un'idea che viene dalla ricerca scientifica, quindi nascono molto lontane dal mercato. Quindi noi cerchiamo di aiutarle a capire se hanno le gambe per muoversi da sole. Questa selezione nasce da un pubblico giovane, anche quello universitario. Ma l'idea di farle incontrare con il sistema delle imprese. Come avviene questa adozione di un'impresa madre, grande rispetto a un'impresa, una startup figlia, piccola? Oggi le grandi imprese non sono più, non hanno un intorno, sono globali, sono nel mondo. E molto spesso le piccole imprese quindi non nascono perché c'è il mercato della grande, ma nascono perché c'è un'idea di business nuova. Dopodiché devono accedere al mercato. Allora la nostra idea è quella di cercare di nuovo di connettere le piccole con le grandi sulla base di una presunzione di conoscere cosa le grandi stanno cercando di nuovo e qual è l'obiettivo di offerta delle piccole. Molto spesso in questi meccanismi la grande si mangia la piccola, ma questo credo che vada bene comunque, perché l'obiettivo è di riuscire a portare sul mercato innovazione competitiva. Istruzioni per l'uso per una piccola che vuole rivolgersi a voi. Uno, riuscire bene a capire qual è l'obiettivo di mercato, non qual è il prodotto. Secondo, cercare di capire quali sono le grandi imprese che possono aiutarmi a andare sul mercato. Si pensi al public procurement, oggi una piccola impresa non partecipa a una gara d'appalto, è fuori. Terzo, essere pronti a farsi inglobare. Questo credo che sia per molti imprenditori dolorosissimo, ma è un aspetto importante della crescita del business. Ti fai inglobare e poi ne fai un'altra. Come fare a entrare in contatto con voi? Il nostro sito si chiama www.netwal.it. Netwal sta per Network per la valorizzazione della ricerca. Noi cerchiamo di far sì che la ricerca scientifica di questo paese diventi proposta di competitività. I venture capital, tradizionale, solido, ma dedicato esclusivamente alle start-up. Diana Saraceni di 360 Capital Partner, www.360capitalpartners.com. Le start-up nelle loro diverse fasi, per cui anche una società neocostituita in cui c'è un team di fondatori con un'idea brillante e un business plan ben strutturato, piuttosto che una società neocostituita in cui ci sono dei brevetti, c'è una tecnologia, tipicamente c'è un inventore, possibilmente già con un socio che si occupa della parte più gestionale e che anche loro hanno scritto un business plan ben strutturato che vogliono sottoporre alla nostra attenzione. Se qualcuno si riconosce in questa griglia, come fa a rivolgersi a voi? Va sul nostro sito 360capitalpartners.com, dove sono disponibili tutti i contatti, ci scrive, ci manda il business plan, anche un business plan molto semplice, voglio dire, un executive summary, una parte sintetica che sintetizza il business plan, non ci manda 150 pagine di scritto, una presentazione sommaria. Dopodiché passa un primo screening e noi lo invitiamo a fare un primo meeting se riteniamo che la cosa sia per noi interessante. Quante imprese avete aiutato fino adesso e con che tipi di fatturato e qual è il vostro win-win, cioè come fate poi a guadagnare da questo giro, insomma, di aiuti che date e ricevete? Mi piace molto la parola aiuti, però non è corretto, perché noi investiamo nelle società, per cui facciamo un finanziamento equity e in cambio prendiamo delle quote azionarie. Noi aiutiamo loro, loro aiutano noi, perché noi con quelle quote azionarie poi facciamo il ritorno del fondo. Storicamente noi al nostro attivo abbiamo 80 investimenti in tutta Europa, perché siamo un fondo paneuropeo. In Italia ne abbiamo una ventina, con un totale di circa, parlo del pool totale paneuropeo, di 300 milioni in gestione. Cosa consigliate a una startup? Consigliamo, prima di mandare a noi la presentazione, prima di venire a parlare con noi, di fare dei dry run, cioè di fare delle prove parlandone con professionisti, con gente che può apprezzare la qualità del loro progetto, del loro business plan, di quello che vengono poi a raccontare a noi. E al primo meeting facciamo delle domande in cui, se anche solo, diciamo, i fondatori si riservano di rispondere ma non hanno indirizzato, già quello non è per noi un buon sintomo, perché i fondatori per noi sono imprenditori e devono in qualche modo darci anche l'impressione che tutti i rischi li hanno considerati. Quindi l'importante è non solo mostrare sicurezza, ma essere sicuri di moltissimi punti. Voi, rispetto ad altri strumenti finanziari, che vantaggio avete, che vantaggio competitivo? Beh, siamo l'unico strumento di investimento nelle start-up, perché noi non prendiamo nessuna garanzia a fronte al nostro investimento, noi ci accompagniamo insieme ai soci fondatori, prendendo peraltro delle minoranze, prendiamo tutto il rischio equity e non c'è nessun altro finanziatore se non i venture capitalist o i business angel che fanno questo mestiere. I business angels, gli angeli che investono in idee. Lorenzo Franchini è cofondatore e managing director di YAG Italian Angels for Growth, www.italianangels.net. È un angel investor con esperienza manageriale e imprenditoriale in vari settori. Io cercherei di creare bene il team e sviluppare un prodotto, testarlo un po' sul mercato prima di venire da noi. Però diciamo che una volta che arriva da noi, quello che noi facciamo ancora prima di investire, c'è una grossa attività di mentoring prima di investire, perché noi sappiamo che se portiamo un'azienda in presentazione ai nostri soci deve essere preparata al punto giusto, quindi quando vediamo un'iniziativa interessante che quindi potenzialmente ci potrebbe piacere ma deve fare una serie di passi per essere pronta, per essere finanziata, diamo una serie di suggerimenti. Questo processo delle volte può durare anche diversi mesi e gli imprenditori sono liberi di seguire le nostre istruzioni o invece di andare da un altro investitore. Però diciamo che abbiamo osservato che quelli che ci hanno seguito hanno poi dopo, sono arrivati a presentare al momento giusto, hanno raccolto soldi e li abbiamo finanziati. Il percorso successivamente è quello di cercare di dare il supporto che l'azienda necessita, che può essere un supporto molto leggero con rappresentanza in consiglio, un supporto un po' più operativo dove il nostro socio ricopre delle cariche anche parzialmente operative. 23 imprese finanziate, come decidete quanto e quando dare il vostro supporto finanziario? Diciamo, la cosa bella è che è deciso veramente da ogni individuo. Noi siamo 100 soci e quando facciamo queste presentazioni vengono gli imprenditori, presentano e alla fine della giornata facciamo girare un foglio dove raccogliamo le intenzioni di investimento. Quindi alla fine si fa l'investimento se c'è la massa critica giusta e quindi se un certo numero di soci hanno detto io do i miei soldi a questa società, e quindi sostanzialmente deriva dall'aggregazione delle scelte individuali dei soci. Quindi ovviamente voi siete degli angeli del business, dell'economia, per dare una dritta, come ci si può rivolgere a voi? Secondo me la cosa migliore è o trovare un buon contatto con uno dei nostri soci, e la lista dei nostri soci è pubblica sul sito, oppure cercare di partecipare a eventi di selezione, di formazione come questo, dove non solo si può avere una maggiore visibilità nei confronti degli investitori come noi, ma allo stesso tempo ci si può formare, si può capire meglio che tipo di cose andiamo cercando. Ecco, avete visto tante idee anticrisi ultimamente? Sì, idee anticrisi sì, diciamo che c'è una grandissima attenzione al risparmio, e quindi a trovare il modo per tagliare i costi, per comprare a meno, o anche il web ora sta permettendo a tantissime persone di crearsi un lavoro che prima non esisteva. Le startup guadagnano nell'incontrarvi e nell'essere finanziate, voi in che cosa guadagnate? Noi guadagniamo quando le rivendiamo e riusciamo a rivendere le nostre partecipazioni a delle somme significativamente superiori a quando l'abbiamo comprata, quindi non puntiamo alla distribuzione degli utili negli anni, ma all'accrescimento del valore della società e alla vendita della società. Quindi è praticamente un win-win, tutti quanti siete soddisfatti? Se le cose vanno bene, sì, assolutamente. Ed è tutto per questa puntata dedicata alle startup. Vi ricordo l'appuntamento con le idee anticrisi di Voci di Piccola Impresa, in onda a luglio e ad agosto, il sabato alle 13.15, con i consigli, le dritte, le storie raccontate dagli stessi imprenditori. Un'occhiata vale mille astuzie.